Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Buongiorno, lo sapete che oggi se avete un'idea innovativa, volete creare una startup, potete raccogliere i fondi necessari tutti o in parte su internet. Si chiama equity crowdfunding e alcuni di voi forse ne hanno già sentito parlare, però la questione interessante è che non è solo una cosa per le start-up tecnologiche, per le cose degli smanettoni, le robe tipo Silicon Valley all'italiana. No, è anche una cosa che può essere applicata dalle aziende produttive e manifatturiere. Infatti, la regolamentazione permette di farlo non solo alle start-up, cioè alle aziende appena nate, ma anche alle PMI innovative, dove la PMI innovativa può anche essere creata da un gruppo che è già esistente, il quale decide di creare una PMI innovativa legata a un progetto innovativo anche nel manifatturiero. Molti progetti sono nel manifatturiero e poi raccogliere i soldi su internet. Per parlare di come si fa a fare queste cose e per parlare di chi l'ha fatto, abbiamo oggi in studio due ospiti. Cristian Bosco, che è responsabile della piattaforma Equity Startup, che è una delle piattaforme di crowdfunding. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Poi abbiamo la signora Veronica Franzin. Buongiorno. Buongiorno. Che produce e vende dei motorini elettrici che si sono finanziati con un sistema di equity crowdfunding e ci racconterà la sua storia. Ma iniziamo da Cristian Bosco, perché poi i nostri ascoltatori dicono: ma come faccio io a raccogliere questi soldi? Visto abbiamo messo anche Betty Curtis che cantava soldi, soldi, soldi. Allora, ci spieghi, poi manderemo in onda una scheda più dettagliata, ma lei ci spieghi rapidamente come funziona l'equity crowdfunding. L'equity crowdfunding funziona attraverso un portale, quindi nello specifico il nostro è equitystartup.it, tramite il quale si crea una trade union tra quelli che sono gli investitori, quindi coloro che hanno interesse ad investire in attività innovative, nello specifico in Italia, perché questa è l'attuale limitazione, e le offerenti. Le offerenti sono delle aziende, come giustamente ha detto, non solo startup, ma anche PMI, che quindi possono aprire un nuovo canale di finanziamento totalmente in alternanza a quello classico delle banche. Per creare una offerta devono semplicemente recarsi sul nostro portale, ad esempio, e c'è tutta una sequenza di documentazione che deve essere prodotta per poter accedere a questa tipologia di finanziamento. Nello specifico ci sono delle procedure che devono essere fatte a livello di statuto, soprattutto perché la legge, la normativa della Consob prevede che nello statuto siano indicate delle categorizzazioni specifiche per accedere alla raccolta. Va poi previsto l'aumento di capitale, perché a tutti gli effetti l'equity crowdfunding si configura come una raccolta di fondi in aumento di capitale. Tu non puoi dire raccolgo i fondi per partire da zero, devi già avere l'azienda e l'azienda fa l'aumento di capitale e lo raccoglie su internet. Esattamente, questo è il meccanismo. Tra l'altro questo meccanismo porta con sé una grande ricchezza che viene sottovalutata da molte aziende, perché l'ottenere nuovi soci non vuol dire solo ottenere qualcuno che poi vuole mettere il naso all'interno dell'azienda. Può essere un modo incredibilmente utile per ottenere un contatto con altre imprese o imprenditori, investitori che hanno esperienza tecnica, concreta, commerciale nell'ambito in cui vanno ad investire. Aggiungerei anche che, siccome comunque bisogna rispettare delle regole che vedremo nella scheda, è un modo di darsi anche una disciplina che poi ti rende più credibile. E poi, essendo questo sistema molto innovativo, come ci spiegherà dopo la signora Franzini, è anche un modo di farsi conoscere in giro. E questi sono ulteriori vantaggi. devo dire che a me l'idea che io vedo un progetto di motorini elettrici o di qualunque altra cosa su internet e prendo, gli do i soldi facendo con la mia carta di credito, facendomi socio, è una cosa che mi lascia un po' perplesso. E in effetti non so quanti lo faranno, perché la mentalità italiana è un po' diffidente. Poi come fa il singolo a valutare certi progetti? Insomma, è un po' difficile, lei non trova? In realtà no, e le spiego in due secondi il perché. Prima di tutto la normativa è molto specifica, quindi l'offerente deve rientrare in una categorizzazione molto ben dettagliata e ci sono tutta una serie di garanzie che devono essere offerte. È ovvio che il progetto può essere un progetto che avrà successo o che non avrà successo, ma è praticamente impossibile che ci sia alla base una truffa o qualcosa di questo genere. No, non una truffa, una cosa difficile da valutare. La valutazione è ovviamente più facile per chi ha una comprensione maggiore dell'ambito in cui va a investire. Questo è legato a qualunque tipo di forma di investimento, se mi permette. È molto più difficile dal mio punto di vista. Sì, vabbè, però se io compro le azioni dell'ENI mi sento più garantito che se compro i motorini elettrici su internet. Ma lei come fa a sapere che i dirigenti ENI facciano delle scelte corrette e che i dirigenti ENI facciano quello che lei si attende o quello che le è stato detto che farà l'ENI? Invece quando si investe su una impresa media o piccola come quelle che possiamo finanziare adeguatamente in questo momento, lei ha una possibilità di contatto vera con l'azienda, può vedere le persone che ci stanno dietro, guardarle negli occhi e comprendere la loro iniziativa, il loro progetto e il futuro. Posso anche chiamarli? Assolutamente sì, c'è tutto la trasparenza. Quindi la signora Veronica che vediamo qui, se io, ma adesso avete finito di raccogliere i soldi? Sì, siamo già in produzione. Altrimenti se io fossi stato un sottoscrittore poi potevo chiamarla, molestarla, ma quanti motorini, ma come vanno le vendite? E potevo esercitare un diritto di molestia certo. Verso il management. È un piacere, fa parte dell'iniziativa. E devo dire, condivido molto anche nella nostra esperienza l'idea che al di là di quanto abbiamo raccolto, che per noi è stato un acceleratore perché poi avevamo già comunque investito molto in questa azienda, è stato molto importante proprio venire a contatto con realtà imprenditoriali piccole, anche medie, così come investitori privati, non investitori non professionisti, e condividere con loro un progetto di impresa. Va bene, e ci racconterà poi la storia. Intanto mandiamo in onda la prima scheda che spiega in che cosa consiste l'equity crowdfunding. Il termine crowdfunding indica un'attività con la quale più persone, crowd in inglese significa folla, affidano somme di denaro, anche di modesta entità, al finanziamento di un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere attraverso piattaforme o portali internet. Ci sono vari modelli di crowdfunding, secondo il tipo di rapporto che si stabilisce tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento. Per esempio, vi sono piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio, donation crowdfunding, come nel caso in cui si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l'elezione. Oppure si può partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro, reward crowdfunding. Per esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si ottiene il biglietto per assistere alla rappresentazione. Questo è il modello ad oggi più diffuso. Con il crowdfunding è inoltre possibile realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi ed effettuati per il tramite di piattaforme online, social lending o peer-to-peer lending. Si parla invece di equity crowdfunding quando tramite l'investimento online si acquistano quote di partecipazione al capitale di una società. L'investitore acquisisce in questo caso il complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione all'impresa. Ma quali sono le regole? L'attività di equity crowdfunding è disciplinata nel nostro paese dalla Consob e l'Italia è l'unico paese in Europa che si è dotato di una normativa in materia specifica e organica. Nella maggior parte degli altri paesi, l'equity crowdfunding non è soggetto a regolamentazione e si fa rientrare nell'ambito di applicazione di discipline già esistenti, come quelle che regolano la sollecitazione del pubblico risparmio o i servizi di pagamento. Rieccoci in linea. Allora, Christian Bosco, dopo che abbiamo un po' illustrato le caratteristiche dell'equity crowdfunding, l'abbiamo visto anche nella scheda, ci racconta invece come è nata l'idea a Torino di fare una piattaforma che si chiama Equity Startup? Sì, certamente. L'idea è nata da una volontà del consiglio direttivo della Sconfidi Nord-Ovest, di cui sono responsabile della gestione proprio della piattaforma. La volontà era quella di iniziare a sviluppare dei canali innovativi e differenti da quella che è l'attività tipica di un Confidi. Ma cosa fa? Confidi garantisce i fidi dei clienti? Conto garantisce. E che cosa c'entra questo col finanziare queste start-up su internet? Beh, vede, io sono molto esperto di economia anche internazionale. La differenza più grossa che vedo in Italia e che purtroppo ho visto oltretutto aumentare come percentuale è l'indebitamento delle aziende o ricorso delle aziende al finanziamento attraverso il sistema bancario. Cioè, quindi quando uno deve farsi controgarantire, voi gli proponete questo? Molte aziende non hanno un rating sufficiente per accedere direttamente a un finanziamento bancario e la controgaranzia è uno strumento per armonizzare il rischio della banca. Ecco, ma cosa c'entra con l'equity startup? L'equity startup è un'altra forma di finanziamento all'impresa che trascende dal tipico sistema bancario, è un modo per far ottenere alle imprese dei soldi, quindi è molto sinergico con quello che noi facciamo, semplicemente, appunto, come ho appena detto, è un canale differente di accesso al... E che cos'è Asconfidi Nord-Ovest? Asconfidi Nord-Ovest è una cooperativa di controgaranzia al credito come istituzione, è un ex articolo 107, quindi è come se fosse una entità bancaria. Siamo controllati da Banca d'Italia e sì, certo, proprio per questo l'abbiamo detto anche nella scheda che è andata in onda. Esatto, quindi proprio per questo il nostro portale equitystartup.it è l'unico ad essere soggetto sia al controllo di Consob sia al controllo di Banca d'Italia. Ulteriore garanzia di quello che è l'affidabilità di tutto quello che viene veicolato tramite il nostro portale. Ecco, in questo momento avete 3 imprese per cui state raccogliendo fondi. È aperta la sottoscrizione ancora? Assolutamente sì. Ecco, leggo qui. Indigenio, tour operator di nuova generazione che sfrutta la sharing economy per ottenere informazioni preziose e confezionare itinerari di viaggio personalizzati. Forever Bamboo intende realizzare la green economy del futuro, produrre 20 tonnellate di germogli l'anno. Trapezzita, piattaforma di consulenza finanziaria. Per trovare informazioni su queste cose bisogna andare su equitystartup.it. www.equitystartup.it, lo ricordo ai nostri ascoltatori. Intanto le notizie sul traffico e la pubblicità, restate con noi. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo della prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, sentite la base musicale di Soldi, Soldi, Soldi, e infatti di soldi parliamo, lo diciamo per chi si fosse collegato adesso. Soldi per finanziare le proprie imprese, non solo le imprese innovative, ma anche le PMI che già esistono, PMI manifatturiere, in aumento di capitale. L'argomento di questa puntata è infatti l'equity crowdfunding. Abbiamo appena parlato con Christian Bosco, che è responsabile della piattaforma Equity Startup, che è una delle, credo siano una quindicina, piattaforme autorizzate da Consob per raccogliere il crowdfunding su internet. Però la trasmissione prevede anche un caso reale, e quindi abbiamo qui, l'abbiamo già presentata prima, ma magari qualcuno si è collegato solo ora, Veronica Franzini, buongiorno. Buongiorno. Di Mi Group, che si è messa a produrre dei motorini elettrici, motorini completamente elettrici, i primi prodotti in Italia, che avevano già quattro azionisti per un totale di 1.300.000 euro, no? Mi ha detto di investimento iniziale. Sì, abbiamo fatto questo investimento, i soci fondatori sono aziende bresciane, la Scalvenzi. Ecco, poi ce le dirà. Certo, volentieri. Ma, e poi avete fatto l'aumento di capitale ricorrendo alla Tip Ventures, che è un'altra piattaforma, sì. E lì avete raccolto 300.000 euro. Abbiamo raccolto 300.000 euro, siamo stati avvicinati quando noi eravamo già startup innovativa e avevamo già investito molto nel nostro progetto. Siamo stati avvicinati da Tip Venture, che ci ha proposto questa iniziativa. Quindi è venuta dalla piattaforma l'idea, non siete voi che siete andati da loro, sono loro che sono venuti da voi. Sì, devo dire, ci conoscevamo, perché comunque stiamo parlando di una piattaforma che nasce in ambito industriale bresciano. Uh-huh. E quindi c'è stato questo incontro. Noi avevamo già dentro di noi la volontà di aprire il nostro capitale sociale, e l'incontro con Tip Venture è stato favorevole proprio perché ci ha dato questa opportunità attraverso uno strumento che noi non conoscevamo. Di chi è Tip Ventures? Tip Ventures sono diversi soci, bresciani. Okay. Quindi... Senta una cosa, ma questi motorini elettrici che costano quasi 5.000 euro, io non me lo comprerei mai, perché rispetto a uno che costa 1.000-1.500, proprio non vedo i motivi, anche per questa vulgata ecologista che francamente a me sta anche un po' antipatica. Però magari a qualche nostro ascoltatore interessano. E poi comunque la genesi di questi motorini elettrici ci serve per parlare dell'equity crowdfunding, quindi ce li racconti questi? Allora, io vorrei convincerla e la invito a provarlo, perché chi lo prova se ne innamora. Guardi, è uno scooter che non inquina, non fa rumore e soprattutto è bello. Ah. E quindi nasce proprio con la volontà di creare... No, bello è bello, l'ho visto. Ha visto? Mi fa piacere. Allora, innanzitutto vorrei precisare che non siamo i primi in Italia. Siamo i primi ad aver brevettato una struttura dello scooter che rende lo scooter leggero e quindi anche performante in termini di consumo di batteria. Abbiamo un brevetto. Ma a me piace quello che fa un casino pazzesco, brum, con tutta la fuliggine che va addosso agli altri. Guardi, l'inquinamento proprio non ma mi riguarda. Ora per me è una missione personale. Convincerla e le farò avere in redazione lo scooter, così lo proverete. Se va bene. Ok, perché... e lo ricarichiamo anche qua. Si può ricaricare in ufficio, si può ricaricare nella presa di casa. Perché si ricarica nella presa di casa, come fosse un cellulare. Allora, lei deve io le offro l'opportunità di avere una abitudine di mobilità elettrica pari a quella che ha con la comunicazione utilizzando un cellulare, uno smartphone. Bene. Ecco, lei deve considerare lo smartphone, se lo mette sul comodino la sera, ecco, e nel garage si tiene il nostro Mi Scooter. Chi sono gli azionisti di questa cosa? Allora, i soci fondatori sono la Scalvenzi Cooperativa, che è un'azienda di Pontevico in provincia di Brescia, che ha una lunga storia nel settore della compattazione dei rifiuti. E ha sposato il nostro progetto anche per ragioni ambientali, oltre che di diversificazione del loro business. Poi, se non sapete come venderli, loro li smaltiranno. Guardi, consideri che in Italia, colgo questa battuta per sottolineare una cosa, e anche io spero che ci siano le persone che finora hanno prenotato il nostro scooter. Quanti che hanno prenotato? Da mesi. Guardi, noi abbiamo decine di prenotazioni e oltre 2.000 richieste di test drive. Quindi accidenti. Si immagini che in Italia in un anno vengono venduti neanche 1.000 scooter di tutte le categorie. Quindi per il nostro tra virgolette cinquantino, abbiamo già queste richieste. No, io non ho dubbi che decollerà, perché raccoglie una moda imperante. Purtroppo il popolo funziona per tendenze. Ma andiamo avanti, chi sono gli altri soci? Allora, gli altri soci sono la Vehicle Engineering and Design, che è una società di engineering sempre bresciana, e poi abbiamo Rossa Agenzia di Comunicazione, che è un'agenzia di comunicazione sempre bresciana. Dove quindi lei lavorava prima di dedicarsi a questa cosa? Perché vedo che dove lavoro tuttora, e diciamo che però da diversi anni molta parte del mio tempo, come quella degli altri soci, è dedicata al progetto. Nonostante lei non andasse in scooter prima? No, io non ho mai utilizzato uno scooter prima di Mi Scooter. E com'è che è venuta questa idea? Perché avevamo studiato il mercato della mobilità elettrica su due ruote, lavorando con un cliente che importava scooter cinesi. Ci siamo resi conto che gli scooter attualmente presenti sul mercato sono tutti di produzione asiatica e sono imitazioni anche esteticamente. Se lei li guarda non si rende conto della differenza tra uno scooter termico e uno scooter elettrico. Allora noi abbiamo pensato, ma perché non fare uno scooter elettrico di qualità, elettrico di qualità, bello e performante? Abbiamo messo insieme le nostre e dove che si trovano le informazioni su questo scooter? Su scooterelettrico.me. www.scooterelettrico.me. Adesso la interrompo un attimo perché vorrei lanciare la seconda scheda sul tema dell'equity crowdfunding. Equity crowdfunding può essere usato per finanziare non solo le start-up, ma anche le piccole e medie imprese a carattere innovativo. Lo prevede il decreto legge numero 3 che il governo Renzi ha emesso il 24 gennaio 2015 e che è stato modificato nella legge numero 33 il 24 marzo 2015. È una riforma molto importante perché allarga moltissimo la platea di coloro che possono servirsi di questo innovativo strumento. Ma vediamo altre norme che ci aiutano anche a capire come funziona l'equity crowdfunding. Per questioni di sicurezza è stato stabilito che la gestione di portali sia riservata a due categorie di soggetti, autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla stessa autorità. Per questioni di sicurezza è stato stabilito che la gestione di portali sia riservata a due categorie di soggetti, autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla stessa autorità. Le banche e le imprese di investimento SIM, già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, come per esempio i gestori di diritto, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob. Ci sono anche benefici fiscali per chi investe in startup e PMI innovative. Detrazione del 19% sull'aliquota IRPEF in caso di investimento come persona fisica, che raggiunge il 25% in caso di startup innovative a vocazione sociale. Deduzione del 20% sull'imponibile IRES in caso di investimento come persona giuridica, ma diventa del 27% in caso di startup innovative a vocazione sociale. Incentivi per investimenti diretti e indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. In ogni caso, l'avvio dell'equity crowdfunding in Italia non è stato semplice. I risultati non sono ancora comparabili con quelli di altri paesi, soprattutto Stati Uniti e Regno Unito, dove il fenomeno è ormai ben sviluppato. Secondo l'ultimo osservatorio Crowd Investing della School of Management del Politecnico di Milano, da quando la legge è in vigore, il capitale di rischio raccolto ammonta a circa 5,5 milioni di euro. È comunque probabile che il fenomeno decolli nel tempo e in ogni caso resta una soluzione interessante per chi sia dotato di ambiziose volontà di intraprendere. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Veronica Franzini di Mi Group, che produce questi scooter elettrici e che li ha finanziati in parte con l'equity crowdfunding. Parlando di equity crowdfunding, lei che idea si è fatta di questo strumento? Che bilancio trarrebbe da questa esperienza? Magari anche avuto contatti personali con investitori? Assolutamente sì. L'esperienza è stata molto positiva. Tanto è vero che non escludiamo di ripeterla in futuro per un nuovo aumento di capitale sociale. È stato molto bello entrare in contatto personale, spiegare il nostro progetto e coinvolgere le persone non soltanto sugli aspetti economici, che ovviamente sono molto prospettici. Ma quindi anche se uno ha aderito via internet, poi c'è un rapporto diretto, c'è? Assolutamente sì, è anche uno scambio di competenze. Perché comunque siamo entrati in contatto con persone che hanno messo a disposizione del progetto non soltanto l'investimento, che può essere piccolo, una quota piccola, anche più importante, ma hanno messo a disposizione la propria competenza, il proprio punto di vista. Ecco, ma questo investimento, forse adesso è meglio girare la domanda a Cristian Bosco di Equity Startup, che è un esperto. Ci dica prima quali sono le vie di uscita dall'investimento se uno ha bisogno di realizzare quei soldi e vuole vendere le azioni, e poi quali sono le vie di remunerazione. Perfetto, proprio come carattere assolutamente innovativo del progetto abbiamo stretto una collaborazione con Intermonte SIM, che è la seconda SIM più grossa in Italia come gestito, la quale ha concesso, oltre a farci da broker per quello che è il trasferimento di denaro, ha concesso l'apertura di un reale mercato secondario. La SIM ovviamente ha degli investitori interni, pertanto una volta che avremo concluso... Quindi la caratteristica distintiva di Equity Startup è che c'è un mercato secondario che si appoggia a Intermonte, non tutte le altre piattaforme di equity crowdfunding ce l'hanno. No, assolutamente no, in questo momento siamo l'unica piattaforma. Quindi c'è il mercato secondario oppure la speranza che qualcuno si compri l'intera società? Sì, una exit all'americana con l'acquisto, con una plusvalenza della società, oppure ovviamente l'erogazione di dividendi. Ecco, la remunerazione invece si ha attraverso i dividendi. Sì. E? Oppure una acquisizione da un gruppo più grosso, ovviamente si spera a un valore maggiore di quello che è il valore iniziale ipotetico. Comunque c'è una percentuale di rischio, perché uno potrebbe non vedere remunerato l'investimento perché l'azienda non riesce a staccare i dividendi, oppure potrebbe non riuscire a uscire, perché magari nel caso vostro è un po' più facile col mercato secondario, ma in altri casi potrebbe essere difficile. Qui, lo devo dire anche a chi ci ascolta, qui sta il rischio. Assolutamente sì. Saluto e ringrazio i miei ospiti. Arrivederci a Veronica Franzini di Mi Group. Arrivederci. E arrivederci a Cristian Bosco di Equity Startup. Arrivederci.